Italia in controluce. Il pomeriggio di Radio 24, in studio Daniele Biacchesi. Oggi facciamo il punto su quella che dovrebbe essere la grande opportunità economica italiana, cioè l'Expo 2015. Voi sapete che nei giorni scorsi ci sono state polemiche molto forti con le dimissioni annunciate e poi eseguite del sindaco di Milano Giuliano Pisapia come commissario straordinario di Expo 2015, e poi tutta una serie di polemiche politiche tra Pisapia e il governo presieduto dal premier Monti. Sentiamo il reportage di Anna Marino. L'Expo 2015 richiede gli sforzi e l'ingegno di un'opera d'arte, ma resta ancora incompiuta. Sembra che si brancoli nel buio sui tempi di lavori e collaudi, sui collegamenti con l'area espositiva e sulle risorse ancora da stanziare. Invece, molto è stato fatto. A 1000 giorni dall'evento internazionale che farà di Milano un punto di riferimento e una vetrina per tutto il mondo, però, lo stesso sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, fa un passo indietro e lascia al premier l'incarico di commissario straordinario. Per l'Expo serve qualcuno che se ne occupi a tempo pieno, ha detto il primo cittadino di Milano di fronte alla platea di Assolombarda. Credo fortemente in Expo 2015. Sono convinto che è e potrà essere una grande opportunità per rilanciare non solo economicamente il Paese dopo aver sconfitto la crisi che stiamo vivendo, ma sono altrettanto certo che l'esposizione universale sarà quella grande opportunità e quel grande successo che tutti auspichiamo solo se tutti, ripeto tutti, ne saremo protagonisti e se da parte del Governo e del Parlamento non ci saranno più ritardi e disattenzioni, ma ci sarà quella necessaria, indispensabile presenza attiva che finora è stata troppo debole e in alcuni casi carente. Dopo l'annuncio di dimissioni del primo cittadino della città meneghina, il Presidente del Consiglio assicura che l'Expo 2015 è un evento strategico per l'Italia intera, ma sui fondi avverte non c'è copertura per deroga al patto di stabilità e il Governo annuncia che a Palazzo Chigi ci sarà un tavolo di coordinamento. Il no alla deroga al patto di stabilità da parte del Governo è una doccia fredda, secondo il Presidente della Lombardia Roberto Formigoni, commissario generale di Expo 2015. Chiede a Pisapia di rivedere la sua decisione, che ritiene inopportuna. Ma si dice ottimista anche dopo l'assemblea generale del BIE a Parigi, che si è svolta proprio all'indomani dell'annuncio del sindaco di Milano. Formigoni però esprime dubbi sulla volontà di realizzare l'evento e si riserva di valutare le conseguenze del gesto di Pisapia. Ritengo assolutamente inopportune le dimissioni di Pisapia, anche perché la governance dell'Expo prevede esplicitamente la presenza di un commissario straordinario, individuato nella figura del sindaco di Milano, accanto a quella di un commissario generale, individuato nella figura del presidente di regione. Quindi se viene a mancare una delle due gambe fondamentali su cui cammina l'organismo dell'Expo, è chiaro che diventiamo zoppi e diventa estremamente più difficile realizzare l'Expo. Mi auguro che Pisapia ritiri le dimissioni, gliel'ho chiesto il presidente del Consiglio Monti ieri sera, mi auguro che le ritiri. Però ha confermato che non le ritirerà. E questo francamente pone in difficoltà, ma non me, pone in difficoltà la realizzazione dell'evento. E si può organizzare l'Expo di Milano senza il sindaco di Milano? Forse non si vuole andare avanti a realizzare l'Expo, ma l'Expo di Milano senza il sindaco di Milano come si fa a realizzare? Quindi secondo lei è un primo passo per rivedere o mettere in discussione l'Expo come le Olimpiadi? Mi auguro di no. Noi stiamo lavorando all'Expo dal 2008, sappiamo benissimo che l'Expo non è figlio di Pisapia come non è figlio di Formigoni, però è stato concepito e voluto dal governo italiano, che all'epoca era presieduto da Prodi, dal sindaco di Milano, che allora era Letizia Moratti, e poi sono stati coinvolti gli altri organismi istituzionali a partire da Regione Lombardia. È chiaro che sia Pisapia sia Formigoni si trovano a gestire un progetto che, ripeto, non abbiamo generato noi, però io ho abbracciato questa opera ben volentieri per il bene del nostro paese, non soltanto di Milano e della Regione Lombardia. È una responsabilità gravosa. Qualche giorno dopo, di nuovo un colpo di scena. Giuliano Pisapia resta invece commissario straordinario di Expo 2015, ma potrebbe delegare i suoi poteri speciali. Il sindaco ha avuto anche l'assicurazione che alla figura del commissario straordinario saranno ridati tutti i poteri che erano stati tolti a gennaio nel provvedimento che riforma la protezione civile. Questo è il risultato del faccia a faccia che Pisapia ha avuto con il premier Mario Monti, a cui poi si è aggiunto il presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, che di Expo è commissario generale. Non si può certo dire che tutti i problemi siano risolti, tanto che il governatore ha parlato di incontro molto positivo ma non risolutivo e il sindaco di un appuntamento positivo ma interlocutorio. Alcune questioni scottanti restano aperte, a partire dalla deroga al patto di stabilità che gli enti locali chiedono per gli investimenti sull'esposizione mondiale e che il governo ha rifiutato. Il sindaco su questo ha comunque rilanciato sperando in una deroga per il 2013. Sentiamo l'annuncio di Pisapia della sua riconferma. La decisione del Presidente del Consiglio è quello di attivare tutte le forze del governo e invitare il Parlamento a fare quelle modifiche legislative che sono necessarie affinché il commissario straordinario possa anche delegare ad altri i propri poteri, il massimo dei successi possibili in questo momento. Però l'amministratore delegato Giuseppe Sala smentisce il rischio che salti il progetto, che va avanti anche se i tempi stringono. Il problema in questo momento in senso pratico non c'è, nel senso che sui primi lavori e sulla prima gara noi abbiamo già chiesto al sindaco di esercitare i poteri e si sindaco e commissario straordinario e l'ha fatto. A fine luglio andremo ad assegnare una seconda gara che tra l'altro sarà la gara più importante, una gara che parte da una base d'asta di 270 milioni e lì di nuovo servirà probabilmente esercitare i poteri, quindi insomma non è un problema urgentissimo ma un problema che va risolto. C'è una mancanza di volontà di fare l'evento come ha avuto il dubbio Formigoni? Mi piace scherzare su tante cose, ma su questo proprio credo che ci sia poco da scherzare. Qui abbiamo un impegno col Paese, abbiamo aziende che hanno già con noi firmato dei contratti, abbiamo Paesi che hanno già indicato che metteranno dei soldi, hanno nominato commissari, hanno presentato progetti. Ecco, su queste cose qua chi ha un po' di dignità non deve scherzare. Parliamo di numeri per capire la portata dell'evento. L'esposizione universale si svolge generalmente ogni 5 anni. La prima si svolse a Londra nel 1851, Milano la ospitò nel 1906. Nel 2015 l'esposizione universale di Milano durerà 6 mesi, dal 1 maggio al 31 ottobre. Sarà dedicata all'alimentazione, il titolo scelto è Nutrire il pianeta, energia per la vita. 21 milioni di visitatori previsti, benefici economici stimati per il territorio oltre 34 miliardi di euro, 130 paesi espositori, 1,1 milioni di metri quadrati l'ampiezza dell'area fieristica a Ropero destinata a ospitare l'evento. Il quadro di investimenti previsti per la rassegna di Ropero determina un valore globale di risorse assegnate al sistema milanese pari a 11 miliardi di euro. 70.000 invece i posti di lavoro creati in 5 anni, 36.000 i volontari coinvolti per l'accoglienza. La validità dell'evento è ribadita non solo dai numeri ma da molti studi, come anche le sue ricadute professionali, come sottolinea Luca Schianato, esperto di fabbisogni professionali Gruppo Class. Si parla di 609.000 unità di lavoro annue nel periodo intercorrente tra un decennio, cioè il 2003, il 2011 e il 2020, immaginando chiaramente che anche dopo il 2015 ci sia una ricaduta positiva di Expo in termini di attrattività del territorio e in termini pertanto di mobilitazione di risorse, in particolare di persone. Quali settori e quali professionalità interessa? Expo vuol dire un upgrading strutturale per la Lombardia di grande importanza. Ora, le nostre stime riguardano sia l'evento in sé, ma soprattutto tutte le grandi opere previste dall'evento e che consentiranno di rendere infrastrutturalmente la Milano e la Lombardia più dotata di servizi di trasporto. Sappiamo le opere relative alle metropolitane, le opere stradali di grande importanza, e queste di fatto occupano circa 3/4 del fabbisogno di personale. Questo chiaramente riporta all'interno delle professioni tutto ciò che riguarda le professioni relative alla costruzione di infrastrutture. Ma manca ancora molto da fare. Di certo rallentamenti e messaggi negativi non fanno bene alla realizzazione dell'evento, come spiega Magda Antonoli, direttore Master del Turismo, Università Bocconi. L'insieme delle ricadute secondo me non sono nient'altro di quanto è già stato messo nel dossier di candidatura del Biennio Internazionale delle Esposizioni, e quindi mi pare che già lì fossero stati fatti dei calcoli che sono quelli sulla potenzialità turistica piuttosto che sugli investimenti necessari e quant'altro, e mi pare però che tutto sommato, nonostante amiamo parlarci addosso in modo molto negativo, ci si sta muovendo in quella direzione, perché effettivamente il fatto di essercelo giudicato voleva dire che avevamo le carte in regola, le infrastrutture, che sono quelle che esigono i tempi più lunghi, sono partite, e quindi mi pare che lì siamo su una tabella di marcia regolare, e poi continuiamo ad avere alcune preoccupazioni ed alcune paure, cioè non è che avanzi molto tempo, però mi pare che stiamo muovendoci nella giusta direzione. Quello che manca sono ancora i prodotti turistici, dove qui effettivamente sono anche gli operatori che si devono sedere al tavolo e incominciare a decidere come rispondere. Difficile calcolare l'ammontare globale delle penali in caso di interruzione dei lavori, ma al solo Comune di Milano la rinuncia costerebbe oltre 10 milioni di euro, una cifra che aumenterebbe ulteriormente se il progetto Expo saltasse dopo il 30 aprile 2013. Secondo i comitati No Expo, il costo complessivo delle eventuali multe supera oggi di poco i 51 milioni e il 90% sarebbe a carico degli enti pubblici che partecipano in Expo SPA. Un danno d'immagine per il paese, unico alibi, una recessione, giorno dopo giorno, sempre più incombente. In Rai Italia in controluce, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.